permetto intanto di dire a Giuliano che è un perfetto cretino. Perché? No, no, ma io... no, ma perché scusa, perfetto? Ma basta, io non capisco perché Giuliano, perfetto, guarda, queste tue battute amicizia sono insopportabili, ma non me ne frega niente di un'amicizia fatta come questa. La Zanzara. Sarà pure meglio Mario, come dicono anche i leader del cosiddetto Partito Popolare Europeo, anche se, Parenzo, se tu vai in giro, prova ad andare in giro come fai tu di solito, le grandi inchieste della Zanzara, le grandi inchieste della Zanzara, e chiedere alla gente, ma voi sapete che cos'è il PPE? Vabbè, ma questo che c'è? Chiedi in giro. Sono qui fermo nella mia postazione. No, ma per dire, chiedi in giro. Aspetta, che cosa? Signor Materassini, lei sa che cos'è il PPE? Telefoni che squillano, warum di in onda. Ma di che parli? No, ho fatto un ma parla come parla la gente, non parlare in modo astruso, warum, ma che vuol dire? Ma parla come le persone che ci stanno ascoltando, impara, fare, capra, ma devo, capra. Ma che devo dire, solo parolacce allora, che chi ci ascolta dice parolacce ogni tanto. Lo vogliono tutti, lui per ora nicchia, pure di fronte alla richiesta di Berlusconi oggi, ma gliel'ha chiesto anche la Merkel, gliel'hanno chiesto altri. Ma comunque il più grande sai chi è? Chi è? È che questo signore qui, di cui io non conoscevo l'esistenza fino a poco fa, il signor Guy Verhofstadt, presidente dei liberaldemocratici al Parlamento europeo. Che già ieri aveva esternato? Sì, quello che ha detto che il PPE cacci Silvio, il signor Guy Verhofstadt. Che non fa parte del PPE allora? No, e lui ha detto il PPE cacci Silvio, oggi ho fatto un giro per i bar e tutti chiedevano chi è il signor Guy Verhofstadt. Monti, no comment. Sulla domanda che lei mi ha rivolto non ho nessun commento da offrire, non sarebbe comunque il momento e non sarebbe il luogo. Non è il momento e il luogo. Comunque Berlusconi sta cercando di fottere Monti in qualche modo, È impensabile che Monti, possa candidarsi col PDL, con altre forze politiche, con la Lega nel fronte dei moderati, tutti insieme appassionatamente, Montezemolo, quello che resta del PDL, Berlusconi, la Lega, eccetera. Ma sono cose da pazzi. Non sto fottendo manco per niente invece. Cerca, ho detto cerca, Ma neanche, perché non c'è nessuna strategia. Che strategia c'è? Ha fatto benissimo oggi Monti andare lì a Bruxelles a fargli cucù. Ci sono anch'io, amico mio, cucù. Intanto lo sai chi si candida premier? Chi si candida premier? Sì. Oscar Giannino. Barbato, senti. Di migliaia e migliaia di cittadini che in tutta Italia mi dicono Barbato vai avanti. E allora rispetto a falliti politici come Berlusconi che è stato presidente del Consiglio e non ha fatto nulla. Sì, sì, o Bersani, arriva la conclusione, che ha fallito nel governo. La vediamo dove. Io penso che devo davvero dar voce ai cittadini e continuare ad essere il loro portavoce e candidarmi a premier in questo paese, perché è la vera alternativa rispetto a fallire. Hai capito, sì. Barbato, si candida a premier. Certo. Continua il cabaret. 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Berlusconi ha anche detto pochi istanti fa che dai sondaggi, se lui si ricandidasse, avrebbe gli stessi voti del 2008, ti giuro, ha detto proprio così. Cioè, dai sondaggi, se lui si ricandidasse, avrebbe gli stessi voti del 2008. In realtà l'aveva già detto ieri, perché spesso si ripete. Aspetta un attimo, ti faccio sentire. Fermate il declino, fermate Berlusca. Prima di fermare il declino, fermate Berlusca. Berlusconi, recupererò tutti i voti del 2008. Io spero che in molti lo possano capire e che, come dicono i sondaggisti, io possa recuperare tutti i voti del 2008 che non sono andati da nessun altro partito, ma ci sono soltanto me. Però la realtà è fotografata da una frase di Berlusconi ieri durante la presentazione del libro di Vespa. La realtà è fotografata da questo. Quando risponde a Bruno dicendo vuole la risposta di stamattina, di oggi a pranzo o di adesso. Cioè lo dice anche lui. Cioè, gioca, sì, sì. Ma vuole la risposta di ieri sera, di questa mattina, di oggi a pranzo o di oggi pomeriggio? Presidente, so che lei ne dà diversi. No, no, io vorrei che quella di adesso... Quelli del PDL che adesso sperano di trovare una sponda con Monti. Io ho una mia personale opinione. Certo, qualcuno è convinto che Monti possa essere, per carità, però la maggior parte di queste persone vogliono ottenere un solo obiettivo: restare in Parlamento. Questa è la mia opinione. Beh, questo sì, è vero. Non c'è dubbio. Poi anche quelli più, anche certo, quelli più limpidi, anche quelli più onesti intellettualmente, vogliono solo restare in Parlamento. Quagliariello, mi auguro che Monti scenda in campo. Io mi auguro anch'io, come Olivero, che Monti scenda in campo. Questo abbiamo capito. Poi che Alemanno, sindaco di Roma, appoggi Monti in nome della responsabilità, eccetera, eccetera, è un paradosso. Diciamola tutta. Sentiamo Alemanno. Non posso escludere che per aggregare uno schieramento diverso, uno schieramento di moderati, una figura come Monti possa essere una figura vincente. Il governo tecnico ha deluso molti italiani e li ha fatti anche arrabbiare, ma il governo tecnico si appoggiava a una maggioranza trasversale in cui c'era dal PD al PDL. Ma il numero uno resta un altro, è il sindaco, il prosindaco, probabilmente futuro sindaco di Treviso, è sempre lui, è sempre Gentilini. Sentilo su Berlusconi e Bossi. Berlusconi e Bossi, dopo il fallimento del loro governo, non dovevano più presentarsi nell'agone politico. La loro gestione è stata un fallimento e quando si è falliti si esce dalla scena. E infine voglio farvi ascoltare quello che dice Federica Salsi, consigliere comunale a Bologna, espulsa da Grillo ieri a 8:30, quando sostiene che in realtà dietro l'azione di Grillo e Casaleggio c'è soprattutto l'obiettivo di far guadagnare soldi al blog, insomma di fare quattrini, visibilità per il blog uguale soldi. Secondo lei Grillo e Casaleggio hanno qualcosa da nascondere? Forse il loro progetto politico comprende una visibilità del blog, una centralità del blog, dove si avvicinano persone che creano numero e non che creano contenuto, perché questo è quello che sta emergendo dalla modalità comunicativa degli ultimi mesi. Quindi, quando lei dice che un blog che crea i numeri, crea anche indotto, affari. Crea un indotto intorno soldi. Al blog. Certo, la pubblicità che c'è sul blog ha un valore, più gente vista al blog. È il giorno anche nel quale Bossi dice: mi ricandido a meno che la Lega non tiri fuori i fucili, Ritornano i fucili di Bossi. Mamma. Questa è la Zanzara e con noi Fabrizio Biolè, che è consigliere regionale in Piemonte, ex 5 Stelle, qualche settimana fa espulso anche lui, più o meno come la Salsi, con questa storia del ritiro, dell'uso del simbolo, da Grillo. Buonasera Biolè. Buonasera. Eccoci qui. Allora, voglio capire, bravo che? Ma non a me, non ha manco parlato, gli dai subito bravo, gli dici bravo subito bravo. Perché? Perché è stato espulso. No, faccia pulita e schiena diritta contro il tiranno Abbard di Genova, contro l'Abbard di Genova. Parenzolo è da tempo che lo soprannomina l'Abbard di Genova, cioè una sorta di capo di Scientology, Grillo. Biolè, lei è d'accordo? Io prima di questa espulsione non avevo mai avuto delle idee rispetto a questa tirannide, diciamo. Sì. Cioè ho sempre potuto portare avanti la mia attività politica, sì, io e il mio capogruppo in modo abbastanza libero, devo dire. Però poi c'è stato questo episodio, sì, che davvero mi ha fatto pensare. E poi adesso anche Fabio Salsi, quindi sì, insomma, stanno raggiungendo come Movimento 5 Stelle una china che non sì piace. Ecco, a ma, me, è, a tanti ma altri. Qualcuno dice che è una vera e propria setta. Lei la definirebbe così, cioè Casaleggio, Grillo e pochi altri. Si può definire una setta nelle modalità in cui mandano via la gente, in cui gestiscono il movimento, no? Ma sicuramente c'è poco confronto, che è quello che viene invece predicato dall'inizio. quindi diciamo questi diktat dell'altro sì, la fanno assomigliare a una setta. Potrebbe, non credo, io non sono mai stato in una setta, non credo che sia che abbia molte similitudini, ma insomma può avere delle indicazioni rispetto a una gestione molto piramidale dall'alto. Gestione piramidale. Predichi esattamente il contrario. Nonostante si predichi il contrario, però lei ha mai incontrato Casaleggio? Un paio di volte. Sì. Esiste dunque Casaleggio? Sì. Assolutamente non, sia quello vero che quello diciamo crozziano che è anche molto simpatico. Ecco, no, la cosa che voglio capire è facile comunicare con Casaleggio oppure è vero che c'è una sorta di difficoltà filtro. Di filtro comunque è piuttosto sulle sue anche quando lo incontri di persona, devo dire. Ha un a chi assomiglia? A un guru? Assomiglia un po' a un guru, no? A una sorta di persona così impenetrabile, abbastanza inavvicinabile, sia il modo in cui si pone sia il modo in cui comunica. Sì, sì, la inquieta questa cosa? Cioè è inquietante secondo lei che il movimento in cui lei è stato fino a poco tempo fa sia guidato in sostanza oltre che da Grillo anche da una persona del genere? Più che inquietarmi, spero che all'interno si capisca che questo è una problematica. Ecco. Quindi diciamo, secondo me le forze ci sono e le belle teste, i bei cervelli, l'intelligenza ci sono. Bisognerebbe trovare un confronto un pochettino più orizzontale che quello predicato. Ecco. Ma sbaglia la Salsi andare ai talk show oppure no? No. Se ha qualcosa da dire, ritiene di poter dire, poterle dire in modo corretto, secondo me non sbaglia. Il problema è che i talk show ovviamente sono strutturati in modo da far passare un certo messaggio e quindi è chiaro che da un certo punto di vista la difficoltà per chi è sbagliato dire, sì, però è sbagliato dire non puoi andare a un talk show, ho deciso io così, oppure no. Secondo me è giusto, lo si può porre come regola, cioè io la penso in maniera diversa da Parenzo, da lei probabilmente. Il problema è che non è mai stata formalizzata questa regola. Beh, come no? Adesso l'hanno fatta. C'è un consiglio e la formalizzazione verrà per chi eventualmente sarà l'eletto in Parlamento. Cioè, prima non c'era, secondo me. Prima non c'era, secondo me. Un consiglio non andare. Cioè, prima delle regole appena emanate per i futuri parlamentari, non c'era mai stata una regola scritta, dice lei? No, assolutamente, io non l'ho mai vista. Anche sul Grillo for Dummies, che è un post di poco tempo fa sul blog, c'era scritto che era molto consigliato non andare, ma non era vietato. Senta, qualcuno dice, a noi ogni tanto piacciono le battute, forse anche le semplificazioni, che si sta comportando Grillo come il marchese del Grillo. Se la ricorda la cosa, io so io, voi non siete un cazzo. Poi sì, così, si può dire o no? Sì. Si può dire che sta evolvendo. No, ma le piace questa comunicazione? Le piace questa, cioè si può identificare Grillo? Io direi più uno vale uno, ma io valgo più di uno. Io valgo questa più di il mio voto, cioè le mie decisioni valgono più degli altri, però questo qua è abbastanza normale, cioè io sono dell'idea che lei, io lo dico con tutto il rispetto, insomma senza Grillo sarebbe poca cosa dal punto di vista politico, dico, non dal punto di vista umano e personale. Diciamo che io non aspiro a essere chissà che cosa, cerco di fare il mio lavoro in regione, così regionale, insomma. Però senza Grillo lei quanti voti piglia, Biolè? Cioè diciamo la verità, senza quel marchio di Grillo, insomma, nulla, ma va bene così, anch'io probabilmente, cioè senza un qualcosa dietro prenderei poco. Ma guardi che questo, insomma, l'ho sempre riconosciuto. Il problema è la modalità in cui un giorno va bene la mia candidatura, il mio lavoro, e il giorno dopo no. Nel senso che la deroga delle due mandati era assolutamente conosciuta fin da un anno prima delle candidature e poi è stata cancellata così. Perché probabilmente bisognava cancellare i, tra virgolette, errori ed deroghe del passato per le politiche. Esatto, questo dicono loro. Lei, per esempio, pensa che il Partito Democratico da questo punto di vista sia molto più avanti rispetto al 5 Stelle? No, assolutamente. L'unica cosa è che esistono degli organismi di garanzia che forse nel Movimento 5 Stelle non esistono, cioè il partito è strutturato in tutt'altro modo. Appunto, forse l'articolo che in Costituzione definisce i partiti non è stato mai ben definito. Sì. Questa è forse la pecca che c'è stata fino adesso. Il Movimento dovrebbe nascere invece dal basso e con orizzontalità e democrazia. Cioè decidono interna, tutti, tutto, forse... tutto Casaleggio e Grillo, ma questo qua è anche prima era così, lei lo sapeva benissimo o no? Alcune condizioni sono state invece un po', come dire, condivise col basso. Nel momento in cui è salito il favore anche degli elettori, anche diciamo i sondaggi che lasciano il tempo che trovano, per carità, però c'è stata un pochettino di più la volontà di tirare le briglie e quindi di accentrare tutto. Esatto, sì, su questo sì. Parenzo, ci sei o no? Chiaramente, Grillo Grillo sta distruggendo una roba che... Ma non assomiglia un po' a Berlusconi in questo? Non assomiglia un po' a Berlusconi in questo, Biolè? In questo modo di accentrare anche il video sono dell'altro due giorno? Sono personaggi completamente diversi. Beh, se insomma, non altro Grillo non si candiderà mai. Questa è una cosa che forse gli rende onore, ecco. Ma un po' si assomigliano in questo, in questa volontà di, come dire, di accentrare tutto, no? Non solo, io, a me viene in mente anche Bossi, Di Pietro, insomma anche altri personaggi politici che hanno accentrato, diciamo, quel movimento o sì, un partito. Cioè come Berlusconi, Bossi, Di Pietro, che vogliono fare un partito alla fine personalistico, questa è la realtà. Un pochino sì. Il fatto di trattenere per sé quello che è l'uso del simbolo, anche da un punto di vista commerciale e politico, diventa, insomma, per forza di cose il sillogismo c'è. Sì, scusi un attimo, dunque lei, ribelli o no, lei mi sta dicendo, aspetta un attimo, lei mi sta dicendo che dietro il movimento c'è anche una volontà di profitto economico da parte di Grillo e Casaleggio? Quello che dice la Salsi. Direi che è abbastanza evidente anche da chi guarda blog, insomma, ci cioè? Sono pubblicità ovunque, quindi da un certo punto di vista quello che è nato anche come sì, la possibilità di vendere merchandising, eccetera, adesso può avere contratti con determinate aziende, possono essere la Amazon per quanto riguarda il Kindle, sì, o tutte le pubblicità, insomma, che vengono fuori quando uno guarda il blog, è chiaro che ci sono, ogni click dà un piccolo guadagno, chiaro. E dunque questo è un problema grosso di conflitto di interessi, dice lei? Grosso no, però potrebbe esserci, soprattutto nel momento in cui il 20%, il 15% comunque degli italiani sono a favore di questo tipo di movimento che, ripeto, io non cancello tutti quelli che sono i principi condivisi e che tuttora in questo momento condivido, le 5 Stelle sono ancora da me. Lei chi voterebbe adesso? Adesso chi voterebbe? Sai che mi fa una domanda difficilissima. Beh, no, però uno dovrebbe rispondere abbastanza... No, è chiaro che uno può essere incerto. Voterebbe ancora 5 Stelle? E tra l'altro penso che gli equilibri si dovranno ancora ben definire. Questo sicuramente, ma in questo momento lei, che ne so, più verso il centro-sinistra, magari il Partito Democratico voterebbe più del 5 Stelle o no? PD decisamente no, su centro-sinistra ma magari su altre posizioni. Ecco. Cioè, per esempio? Quello che si definirà. In realtà veramente sto anche pensando di non votare, sinceramente. Di non votare, cioè meglio non votare che in questo momento votare il 5 Stelle per dopo quello che è successo. Abbastanza, è ancora abbastanza fresco. Ecco, l'altro giorno quel video che lei ha visto non assomiglia un po' a un editto, cioè come l'editto bulgaro di Berlusconi? Un po'. Infatti, sì. A me non è piaciuto. È d'accordo. Tra l'altro, come a dire, cioè io non sono democratico, quindi te ne vai fuori dalle palle, insomma. Il significato è già insito all'interno dell'epiteto, ecco. Ecco, ma insomma, a me ha dato l'impressione di una sorta di editto bulgaro, cioè quell'impressione lì. Un dittatore sudamericano. O no? Sicuramente è un'uscita bruttina. Tra l'altro ho visto anche Beppe Grillo che era molto stanco, molto affaticato, quindi non so se una comunicazione che voleva dare all'esterno oppure proprio sta soffrendo per tutte quelle che sono le difficoltà in questo momento. Ma non malato? Sì. No, non credo che si abbia qualcosa. Lei dice. No, assolutamente. Stanco, affaticato. Senta, ma queste parlamentari non sono state una mezza buffonata alla fine? Cioè controllate dall'alto? La radice diretta del sistema, cioè quelle che sono che il programma all'interno di voti non è stata conosciuta da nessuno e poi 25.000 persone in tutta Italia mi sembra un po' pochino. Un fallimento, insomma. Una buona idea che forse non si è realizzata in modo positivo. Va bene, grazie Biolè, grazie. Lei si vuole ricandidare, no? No, assolutamente. Io finirò la mia legislatura e poi farò politica, ma da cittadino in associazione. Grazie, a presto. Siamo andati a finire nei mostri di Striscia la Notizia. Me l'hanno segnalato, quindi bisogna essere. No, capito? Bisogna essere felici o. Non lo so, sentiamo. Al quinto posto alla Zanzara, la mostruosa intervista telefonica rilasciata da Emilio Fede. Io ancora oggi ho scritto al presidente dell'INPGI. Di liquidarmi. Io fondo pensioni. Quanti soldi devi avere? Ma quelli che sono solo. Porca la puttana, andata a No, Emilio, scusa, ma chi si è arrivato con loro? Siete delle merde. Vado a cercare nel mio privato. Ma noi abbiamo cercato. Ma noi che c'entriamo? Allora, con questo io ho fatto fare i conti di cosa prenderò a dicembre. Sia la tredicesima del stipendio, 15.000 euro. Ho rubato! Ma che è successo? Scusa, ma andata a fanculo! No, scusa. Ma noi che c'entriamo noi? Tutti voi siete banda di figli di buona donna. Oggi è l'Espresso. L'Espresso. Mi ha dato 800.000 euro. Mandate a fare in culo. Ma querela lì, mandate a fare in culo. Ma noi siete delle merda. Emilio, ma perché siamo noi? Ma noi chi c'entriamo noi? Insomma, quando si parla di pensioni bisogna avere fede. Sì, ma meglio non averlo al telefono. Dalle mie. Sono solo. Porca la puttana, andata a far culo. Ma come è meglio non averlo al telefono? No, mi meraviglio che gli amici di Striscia, il signor Ricci, sì, ci abbiano messo al primo posto. Il quinto non va bene. Solo quinti, cari amici di Striscia, facciamo un passo in più. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Monti alla riunione dei popolari europei, mi sono dimesso per colpa del PDL, il PPE basta col cavaliere, Monti il candidato gradito all'Europa. Berlusconi, Monti si candidi, con noi e la Lega può vincere la mia discesa in campo, aspetto di vedere cosa succede, Marroni no alla grande ammucchiata. Bersani, il cavaliere fa solo giravolte ma perderà, meglio occuparsi dell'Italia, dopo il voto aprirò un dialogo col centro, Monti una risorsa. Con la crisi italiani meno ricchi, aumenta la diseguaglianza al 10% delle famiglie, la metà della ricchezza. Ancora proteste nel Lazio per la sanità, a fine mese chiude il San Raffaele, allarme sulla spending review, nuove ASL su 10 tagliano i servizi. Stefano Cucchi è morto per carenza di cibo e liquidi, lo dice la perizia chiesta al Tribunale di Roma, lesioni causate da aggressione o caduta. Diplomazia unanime, Russia compresa, Assad ai giorni contati, il regime non controlla più neanche la capitale, Damasco. È meglio Mario, ma Mario, che certe cose le dimentica. Comunque, se mettessimo insieme tutti i moderati, si potrebbe arrivare a vincere le elezioni. Quindi saremmo sempre preoccupati, ma avremmo una prospettiva. Ma resta la coalizione che ci deve essere anche la Lega, perché lei ieri ha detto che ci dovrebbe essere la Lega in questa coalizione. Per essere tutti insieme i moderati ci dovrebbe essere la anche la in politica si può tutto. Beh, la frase più bella è qui, in politica si può tutto, dai. In politica si può tutto. Ma ve lo immaginate voi il signor Monti? Il signor Monti insieme alla Lega, d'altra parte gli stessi leghisti dicono che è impossibile da questo punto di vista. No, ma anche ve lo immaginate il signor Monti insieme alla Lega? Lascia perdere fisicamente, che c'entra? No, come carattere, come postura. Ma Bossi oggi ha ripetuto una cosa che aveva già detto nei giorni scorsi. Certo. Monti deve sparire dalla faccia della terra. E c'è Berlusconi che sostiene che in realtà sì, in politica si può fare tutto, una coalizione che va dal PDL alla Lega con Montezemolo, Casini, tutti quelli che sono contro Bersani e Vendola, ma non è che si fanno così le cose. Ma governare il paese non è come fare Striscia la notizia, cioè, ma lo sa Berlusconi o no? Comunque invitiamo il direttore di Nigrizia. Senti, lo sai che mi hai rotto le scatole? Ma perché? Cioè, mi hai veramente stancato. Voglio sentire Boncompagni che propone. Natale, parliamo che anche di non mi rompere le scatole con queste stupidaggini. Boncompagni che dice: vabbè, vai a Radio Popolare. Boncompagni che dice: vai a Radio Popolare. Per carità, va benissimo, non sto attaccando Radio Popolare. Adesso non mi rompete le scatole con questa cosa, a Radio Popolare. Ma va benissimo, vai. Tanto non ti prendono. Boncompagni propone Vespa e Bruzzone al posto di Fazio e Littizzetto. Rinviare Sanremo per elezioni. Sembra che abbia proposto Berlusconi al posto di Fazio e la Littizzetto. Sì. Vespa e la criminologa. La Bruzzetto, come si chiama la? Sì, la Bruzzone. Bruzzone, questi due. Perché lui non bestemmia, né dice le parolacce. Vespa è educato. Sì. Non ha... la Bruzzone no, lei ogni tanto dice delle parolacce. 800 24 00 24, andiamo in provincia di Monza. Franco, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, buonasera anche a Nano, sì. Parenzo, non ho capito se Nano è il nome o il cognome, però vabbè, fa niente. Sì, come ha detto il Nano? Non faccia lo spiritoso, Franco. se non lo sa fare, non faccia lo spiritoso, su. No, lei non può dirlo che non so farlo. No, diciamo l'esordio non è stato dei più felici, comunque vada. È stato stupendo, volevo dire che è stato stupendo anche l'intervento del grande Emilio Fede, gli avete fatto dire la verità, ciò che pensava. Siete sì. stati bravissimi perché l'avete portato all'estremo. Ma veramente non abbiamo fatto, in questo caso non abbiamo nulla. Proprio niente in questo caso. No, comunque, appunto, vabbè. Fatto l'avete fatto comunque. Esasperare, però va bene. Ma non l'abbiamo fatto esasperare, no. Era esasperato di suo. Sì, ma lui è già normalmente esasperato, voi sì. ci avete messo la ciliegina sopra la torta. Ma le assicuro che in questo caso, noi per carità portiamo la gente all'esasperazione qualche volta, in questo caso non abbiamo fatto niente, abbiamo chiamato ed è partito lui per la tangente. Però vabbè, è partito insomma, da solo, è verissimo. È partito grande, da solo. La proporrei come sigla comunque della vostra trasmissione. C'è tempo, non si preoccupi. Poi? Il motivo per cui ho telefonato, anzi, avevo cercato ieri di mettermi in contatto con voi. Ma non c'è voi. Problema, adesso non c'è bisogno di ricapitolare. No, ma era soprattutto per la notizia appunto di Berlusconi sì. Che si candidava e dunque avrebbe fatto poi un passo indietro. E, sia lei che Parenzo vi siete meravigliati, avete detto che mancavano due camici bianchi per portarlo via. Sì. Io invece volevo dire che secondo me Berlusconi è un grande stratega, lo sta ancora dimostrando questa volta. Io credo, ma poi voi è mi è un grande stratega secondo lei? Sì, politico. Sì, beh, certo. Sì, sì, perché sono convinto che questa mossa lui l'aveva già studiata prima. E con questa mossa credo che lui voglia arrivare... Ma quale mossa? Quella di proporre Monti? Che cosa? Quale mossa? No, la mossa è quella che innanzitutto si è voluto candidare lui, spazzando tutte le... Ma forse diciamo, non ha capito, oggi c'è stata un'evoluzione. Se lei me lo fa dire, io infatti sì. Volevo dire... Sì, che ma non è un comizio, cioè non è che adesso... Cioè, vabbè, allora... Okay, vada, Franco, dica. No, allora, dicevo, secondo me la sua strategia è questa, sì. Cioè far diciamo, capire a tutto il popolo italiano sì. che Monti comunque, se dovesse scendere in campo e ovviamente per vincere, sì. deve scegliere una coalizione, cioè si deve, come sì. dire, dichiarare da che parte sta. E secondo me Berlusconi con questa mossa farà dichiarare Monti più del centrodestra che del centrosinistra. Secondo me no. Comunque, Franco, no, beh, infatti io ho che sia un obiettivo di Berlusconi può darsi, ma che Monti risponda di sì, secondo me è una cosa che è nel mondo delle impossibilità. Andiamo in provincia di Savona. Pietro? Buonasera. Dica. Buonasera. Velocemente, sì, ecco. È divertente assistere al teatrino di questi politici. Sì, è importante anche che lei abbassi la radio oppure spenga, Pietro. Non lo voglio ripetere per la centesima volta. Ha ragione, sono in viaggio e lo so, volevo basta, sapere anche basta. Quando potevo parlare. Dica. Allora, velocemente, ho assistito e vi seguo sempre. Sì. Vengo al sodo. Ecco. Brunetta l'altra sera... che ho sentito la vostra sì, radio che non hai i soldi no, non hai i soldi per pagare l'IMU io sono rimasto, guardi, mi è scesa una lacrima veramente, addirittura si è messo a piangere. Sì, mi sono messo a piangere. Vabbè, non esageriamo veramente adesso, cioè. ha una bella faccia, devo dire, devo cioè da, appena devo ha sentito dare, la voce devo... di Brunetta lei si è messo a piangere per l'incazzatura, sì, immagino. Sì, sì, perché veramente un personaggio così, un ex ministro, un parlamentare che non ce la faccia a pagare l'IMU, è una provocazione a fini elettorali. Proprio. Ma lei cosa farebbe a Brunetta in quel momento, mentre ascoltava, cosa avrebbe fatto a Brunetta? Ma guardi, io veramente se lo può immaginare. Eh no, me lo dica, me lo dica. No, ma me lo dica che tipo di reazione ha provocato nel suo stomaco. ha ragione. No, ma guardi, lo voglio sapere. Glielo posso dire. Me lo dica. Mi è venuto quasi un attacco di dissenteria, se posso essere... Addirittura, cioè lacrima sì. più dissenteria. Sì. Cioè, ma proprio sì. È uno sfogo. L'ha ridotto proprio, cioè, l'ha ridotta malissimo. Cioè. Sì. Come ha fatto a continuare a guidare, scusi Pietro? Guardi, ho abbastanza self-control e allora sono riuscito lo stesso. Vabbè. Sono controllato lo stesso, mi sono trattenuto. Angelo da Roma, buonasera. Buonasera a lei, salve. Dica. Sono Angelo da Roma, volevo salutare a lei, Parenzo, volevo dire questo, È da un po' di tempo che sento che state facendo una campagna abbastanza dura nei confronti di Grillo. Ma nella maniera più assoluta, no, lei non ha capito assolutamente nulla, Angelo, scusi se mi permetto. No, non ha capito nulla. No, no, non ha capito nulla. Lei non ha capito nulla, io non ho fatto nessuna campagna contro Grillo, nella maniera più assoluta. È un arrogante, vabbè, un arrogante. No, è un arrogante perché... Ma chi è arrogante? È un arrogante perché... se vuoi glielo spiego perché... Ma lo dica, me lo dica. Se vuoi glielo spiego, lei non può esortire dicendo non ha capito nulla. Quando lei paragona... Lei sta dicendo che io sto facendo una campagna contro Grillo. A Grillo... Cioè, il paragone a Berlusconi a Grillo. Il metodo è una domanda che abbiamo fatto a Biolay. Non è il metodo, lei non ce lo può nemmeno paragonare. Perché sono cose. A parte che io paragono, io faccio tutti i paragoni che voglio, lei non mi può dire, lei non può paragonare Grillo a Berlusconi. Ma lei, gli ho detto, dall'alto della sua arroganza può fare quello che vuole. Però lei, al di là della sua arroganza, poi nella sostanza è uno che sta cercando di mantenere lo status quo. Voglio mantenere lo status quo che mi fa comodo. Sì, lo status quo nel senso che se Grillo rappresenta una novità per molti e lui in questo modo tenta di affossare, fa una campagna per affossarlo. Ma quale campagna per affossarlo? Ma se lo sto appoggiando in tutta questa sua vicenda con i dissidenti, eccetera. Ma come fa a dire che lo sta appoggiando? Ma forse lei non capisce una cosa molto, molto semplice, Angelo. Cioè, bisogna capire una cosa: che chi non ha i paraocchi, chi non ha il prosciutto sugli occhi, non è che dà dei giudizi netti su una persona, punto e basta, qualsiasi cosa faccia. Io, secondo me, in questa vicenda dei dissidenti, eccetera, ha ragione Grillo. In altre vicende, dico che Grillo ha torto, punto. A parte che io non sono tutto d'accordo sul fatto che abbia ragione Grillo, perché comunque quello è un errore, secondo me, politico. Secondo me no. Un'immagine del movimento che non è esattamente democratico. Però vede, Grillo in Italia in questo momento, a mio modestissimo parere, non conto un cazzo, io personalmente. È una persona che tutto sommato rappresenta il nuovo, a fronte di un vecchio che è dilagante, ho preso Monti che è un vecchio dilagante, ha martoriato tutte le classi popolari e non ha toccato i veri potentati. Poi questo è il mio modo di vedere, chiaramente lei può pensare e dire, la ringrazio, anzi che me lo fa dire, vi ringrazio lei e ringrazio anche... Va bene, grazie Angelo. Andrea da Verona, buonasera. Pronto? Andrea, mi sente, dica. Salve Cruciani, allora io voglio fare una previsione. La mia previsione è che molte delle persone che saranno espulse dal Movimento 5 Stelle, a mio parere, finiranno nel Partito Pirata Italiano. E se ne parla poco, premetto, io non sono un attivista del Partito Pirata Italiano, ho avuto solo modo di sentirlo una volta, però ecco, si ispirano molto a quello che è il Partito Pirata Internazionale, quindi hanno delle regole. Ma dov'è questo molto... Partito Pirata? Dov'è? Dove si trova? Chi lo fa? Allora, il Partito Pirata non so se ha seguito in passato, ha avuto... No, abbia pazienza, il Partito Pirata in Italia non l'ho seguito, no Andrea, cosa succede? Chi è? No, dove, no. Chi lo guida? Allora, adesso non ricordo il nome. Ecco, non lo ricorda. Però... Meglio, allora, se non lo ricorda non ci rompa le scatole, scusi Andrea, abbia pazienza, cioè non è che uno possa parlare del Partito Pirata in Italia, abbia pazienza Andrea! No, ecco, questa è la mia previsione. Ecco, penso ma che cosa? Vanno a finire chi? Gli ex grillini andranno a finire col Partito dei Pirati? No, penso che coloro che comunque rimarranno delusi al Movimento 5 Stelle in qualche modo ricercano. Andranno col forma. Partito dei Pirati, va bene. Sì, ho questa idea, ecco, tutto qua, questa previsione. Vabbè, vedremo. Grazie. Giuseppe da Rimini, buonasera. Partito dei Pirati. Buonasera. Allora, io volevo suggerire questa ipotesi. A me pare evidente che il nostro utilizzo... La sento male. Giovanni da Campobasso. Buonasera, finalmente. Giuseppe, sì, è un piacere parlare con voi, vi ringrazio di questa opportunità. Sì. Vi do già gli auguri anticipati se eventualmente mi dimentico. Ma eventualmente cosa chi da parla? Dire, Giuseppe, ma questo porcile, questa Repubblica parlamentare, questi porci, fanno soltanto il comodo loro, devono andare tutti a casa. Perché questo sistema di partiti che si passano la palla fra di loro per farsi la palla, che... è come una squadra di calcio che si passano la palla fra di loro. La palla tra di loro. Certo, Giuseppe. Sì. Ma con chi sta parlando? Napoletano, perché deve distruggere le telefonate per non passare? Ma il popolo italiano. Ma che c'entra adesso Napoletano con le telefonate? No, fammi parlare, scusa. Ma fammi chi? Non ho capito. Ma Giuseppe chi? Fammi chi? Giuseppe? Ma chi Giuseppe? Giuseppe chi? Giuseppe Crociale, tu. Ma chi? Mi dà del tuo? No, ma... dico napoletano. Napoletano, il presidente, sì. Napoletano. Napoletano, non napoletano. Napoletano, come cazzo si chiama lui, che ne so io, che cazzo lo conosce. Quello è il direttore. Ma dico io, ma sì. Dico io, perché non deve far sapere le telefonate che ha fatto con... Deve distruggere le telefonate a Palermo con la mafia. Perché il popolo italiano non deve sapere ciò che fanno questi popoli? Ah, ma ecco. Poi... ha detto che Monti è senatore a vita e non può presentarsi come partito, questa Repubblica parlamentare deve andare a finire nel Vesuvio. Questo sistema, perché loro arrivano, per chi è, ma sta bene, e eh? Chi arrivano, dove si trova? Arrivano chi? I signori, a prenderla. I signori in camice bianco, Giovanni. Io non dico che ci rivuole. No, per carità, stia calmo. No, non lo penso nemmeno, però ci vorrebbe un po' di degno, un po' di dignità di questi signori che vanno, sì, lì per salvarsi dalla giustizia, per presentarsi nella poltrona, per quel bastardo di Fini, sì, quando ecco c'era pure il presidente Prodi, sì, siamo andati a Bari a salutarlo, a fare una manifestazione, sì, è caduto il governo Berlusconi, prende due pensioni, sta ancora seduto lì che rubi i soldi. Ma questi cicchitti, Bondi, ma dove ne devono andare? Bersani, quella faccia di merda di Ferdinando Casini, Monti, Tremonti, arrivano, e quanti mortacci che c'hanno loro al cimitero. Ma perché? Devono andare tutti nel Vesuvio. No, arrivano scusi, Giovanni, professore, devono andare al Vesuvio, sì, l'unica nazione in Europa, il Belgio, monarchia costituzionale a struttura presidenziale. Io non so queste parole che cosa vuol dire. Scusi, professor Zagrebelsky, nel Belgio. Aspetti un attimo, Giovanni. Scusi, professor Zagrebelsky, parlo col professor Zagrebelsky. Professore, con chi sto parlando? Sono Parenzo, professore, buonasera. Buonasera. Professore, ho sentito la sua dotta analisi. No, volevo dire, ho sentito la sua dotta analisi. Ha qualche analisi preziosa da offrirci, per esatto, esempio? Su... ha qualche altra analisi? Cioè, secondo lei Monti si candida o no? Ecco, vorremmo capire. No, questa Repubblica parlamentare deve andare a casa, questo sistema D'accordo. Non va questo sistema. Però, scusi, professore, volevamo capire se secondo lei Monti alla fine si candida. Ma che me ne frega, per me Monti deve andare a fare in culo. No, professore, scusi, ho capito dal suo eloquio che lei che ha fatto studi internazionali. No, io ho fatto la terza elementare. Ho capito, io ho fatto la terza elementare. Era abbastanza chiaro. Sono 55 anni che gira il mondo. Sì. Va bene. Sono 55 anni. Professore, ma secondo lei come dovremmo modificare la legge elettorale, ad esempio? Allora forse non mi sono spiegata. La Repubblica parlamentare non va bene in questo paese. Benissimo. La legge elettorale io devo quando, io quest'anno, quando vado a votare il prossimo anno, mi faccio scrivere che mi rifiuto di votare perché non mi sento essere rappresentato. Benissimo. Da questi porci. Scusi, da questi... Certo, scusi, chiaro, chiarissimo. Professore, scusi un attimo. Quando vado a votare, professore, devo scrivere il nome di chi voglio al potere. Vabbè, quello diciamo, ha un senso. Professore, scusi un attimo, io vorrei capire da lei. Ma a suo parere... professore, scusa? Lei professore, analisi. Certo. Ma no, io sono Giovanni, che è professore. Dov'è, professor Giovanni? Giovanni, certo. Ma no, io sono niente, professore. Io ti ho detto che ho fatto la terza elementare. Vabbè, uguale, maestro, possiamo dire maestro? Ma vabbè, dai, te lo concedo, Giuseppe, tu sei una persona intelligente. Certo, scusi, maestro. Anche con Diego Basandone lì alla domenica. Sì, beh, certo. Maestro, io le voglio chiedere una cosa, ma... dica. Secondo lei l'alleanza... Eccoci. L'alleanza tra la Lega e Berlusconi sta da fare? Non me ne frega niente, non me ne frega. A me non mi sta bene questa alleanza, perché se io do il voto a uno del Mingo Pallino di Bari, non me ne frega di quell'altro di Palermo, di Varese o di Venezia o di Torino. Beh, ho capito. Beh, chiaro, chiarissimo, sì, è chiarissimo. Ma perché io quando vado a votare devo esprimere il nome e cognome di chi voglio essere governato. Scusi. Ma perché queste riflessioni non me le appunta e le mandiamo magari a Ezio Mauro, alla Repubblica? Scusi, maestro. Quando la 27 ha detto che Berlusconi ha rotto i coglioni, hanno rotto i coglioni tutti quanti. Sì. Maestro Berlusconi. Maestro, vedi? Scusi, vorrei da lei un politologo della Zanzara. Professore, vorrei da lei un'analisi sulla situazione di Bersani. Secondo lei Bersani è pronto a governare il paese? Non hai capito, anche se ci va una persona onesta, sì, con questo sistema parlamentare deve andare disonesto in quel posto. E Napolitano se non è disonesto non, sì, può governare questo paese. E la figura di Napolitano come la vede, la figura di Napolitano? Ma allora non ho capito, per me tutti quanti, sì, devono andare dentro al Vesuvio. Ah, benissimo, benissimo. Ecco. Grazie, okay, Giovanni. Il sistema parlamentare in questo, sì, paese non va bene. Non va bene, grazie. Non mi moleste moschito. Non mi moleste moschito. Non mi moleste moschito. Why don't you go home? Carlo da Milano, moschito. Buonasera. Buonasera, va bene. Innanzitutto concordo con le tesi moderate di Giovanni. Dopodiché volevo dire che dopo la telefonata che c'è stata 2 giorni fa con Marcello Dell'Utri, sicuramente non, sì, ho dubbi su dove lei, Cruciani, passerà questo Capodanno. Cioè? A Santo Domingo? Dove? Bravissimo. Già me lo vedo con un cocktail, lei, Dell'Utri e magari anche Padre Amort. Bah, guardi, tutti insieme appassionatamente. Guardi, Carlo, cioè non mi dispiacerebbe andare a Santo Domingo. No, me non lo dubbi. Scè Dell'Utri. Ma sì, ma un cocktail, una serata, perché no, insomma. Scusate, io mi volevo permettere di tirarvi le orecchie, perché da un po' di tempo che non vi sento più, sì, appoggiare la campagna di Giannino. No, ma noi Giannino l'appoggiamo a prescindere, il problema è che bisogna anche capire quello che vuole fare, insomma. Beh, siccome non è chiaro ancora, cioè... Sì, però ha detto che si, ho capito, si candida premier. No, non è vero, non l'ha detto, gliel'hanno proposto i suoi, insomma, siamo ancora a sorta antenna, io lo dico, come dire, con amicizia, con affetto, però siamo un po' a sorta antenna. Che come dire, che faccia breccia, ecco, che allarghi l'elettorato, insomma. Grazie, Claudio, sempre da Milano, buonasera. Ah, buonasera. Dica. Senta, l'entusiasmo di vederla, di sentirla in trasmissione mi farà fare qualche errore. Però ma non c'è, dire... che entusiasmo di che? Mi mandi a quel paese, quale entusiasmo? Ecco, infatti, volevo mandare a quel paese proprio giusto perché? La perché? Sua posizione nei confronti di Grillo. Che ho detto su Grillo? Come fa a sostenere, sì, a differenza di quel diciamo socio che è Parenzo, sì, che ha tenuto una posizione rigorosa, la Salsi, Favia... buttati fuori a calci in culo, è assolutamente impensabile che uno possa fare il politico. A questo punto lei, che un attimo fa ha detto che è sponsor addirittura di Grillo, non, no, ha ma io non ho che detto Grillo... che sono sponsor, ho detto che in questa vicenda dei dissidenti io sono dalla parte di Grillo, perché questi qua sapevano come funziona il Movimento 5 Stelle è guidato da Grillo e Casaleggio, questa storia della democrazia interna è una stronzata, oddio, secondo me una stronzata inaudita, perché dietro queste proteste per la democrazia, per la partecipazione ai talk show, c'è dell'altro, c'è la smania di persone di essere presenti perché sono alla fine dei mandati, perché evidentemente non saranno ricandidati, non sopportano adesso la personalità di Grillo mentre l'hanno sopportata per tanti anni, ma insomma di che parliamo? Sarebbero nulla, sarebbero polvere senza Grillo, polvere. Ed è con noi il sindaco di Verona, caro Parenzo, il sindaco di Verona, Flavio Tosi, buonasera sindaco. Sì, buonasera a voi. Come andiamo? Come andiamo? Bene, grazie, molto bene, grazie. Beh, insomma, state qui facendo la fronda, c'è carne al fuoco, moltissima carne al fuoco, Guarda che non si bruci. Ha sentito Berlusconi a Bruxelles scatenato, anche lì, è 2 giorni che parla. Lei ha capito cosa ha detto Berlusconi in questi giorni o no? Beh, allora, capito, no, perché... nel senso di aver sentito quello che ha detto, sì. Sì. Compreso il filo logico, quello è un po' più complicato. È un po' più complicato, ecco, confuso, ma da questo punto di vista, secondo lei, non servirebbe un passo in più, cioè andare da un dottore, per esempio, o no? Adesso, per carità, la metto in maniera scherzosa, però insomma uno rimane piuttosto stupito, no? da questi continui sbalzi. Monti prima lo fa cadere dicendo che l'economia è allo stremo per colpa del governo Monti, poi adesso lo vuole premier, addirittura va a Bruxelles a candidarlo a nome del PPE, eccetera, eccetera. Ma insomma, no, non servirebbe un dottorino? Bisogna capire cosa ci sta dietro, nel senso che potrebbe essere anche una strategia talmente geniale sì, da essere incomprensibile a noi comuni mortali. A noi umani, dice lei. Cioè, esatto. Lui. Potremmo essere noi che non capiamo. Siamo noi c'è della lucida capiamo. Follia, c'è della lucida follia. Beh, insomma, però secondo me una visitina ci vorrebbe, o no? Ma diciamo che i discorsi non sono particolarmente lineari. Quello non sono lineari. Quello che dice Monti prima ha fatto bene a dimettersi perché non se ne poteva più perché ha sbagliato tutto. Sì. Dimenticandosi fra l'altro di aver votato tutto quello che ha votato Monti. Esatto. E poi dice che Monti invece lo vedrebbe bene come candidato suo di tutti, insomma un po' di linearità manca, però ripeto, magari caso una strategia talmente brillante che per noi è troppo difficile da comprendere. Un caso psichiatrico si può dire o no? No. O è eccessivo? Questo lo dite voi. Però devo dire che voi usate anche grande cinismo. In politica cioè, il cinismo secondo me è sacrosanto, per carità. Siccome Berlusconi è impicchiata, adesso fate un po' gli schizzinosi, fate un po' i ciusi, come dice la Fornero con Berlusconi. Prima insomma lo appoggiavate, cioè, lei l'ha detto anche esplicitamente, non ha più feeling con gli italiani. Cioè, adesso sì, che questo lo dico da tempo. Un anno e mezzo a questa parte, quindi quasi due anni a certo, questa parte. Quindi. Però un po' adesso fate gli schizzinosi con Berlusconi. Prima andava bene tutto, adesso Berlusconi lo volete... va bene. Nella Lega sono anche cambiate tante cose, cioè rispetto al PD che non è cambiato nulla, al PDL che non cambia nulla, sì. E nella Lega sono cambiate tante cose, c'è un nuovo segretario federale e quindi è chiaro che possono essere delle posizioni differenti perché nella Lega c'è stato un cambiamento profondo e secondo me positivo. Però non è che devono cambiare anche gli altri, cioè, no, perché volete scegliere voi il leader del PDL? Cioè, voi dite se Berlusconi è il leader, noi l'alleanza non la facciamo. Noi vogliamo scegliere il leader del PDL, noi diciamo che una sua candidatura da parte nostra è insostenibile, come è anche insostenibile una candidatura di Mario Monti. Se ci fossero altri candidati, questo non vuol dire che si faccia l'alleanza perché è molto complicato lo stesso farlo. Cioè, con Alfano sarebbe complicato lo stesso? È complicato per quello che è successo, perché il PDL appunto è lo stesso che ha sostenuto Mario Monti da un anno a questa parte, che ha votato la reintroduzione dell'IMU sulla prima casa, che ha aumentato le tasse a dismisura a carico delle famiglie e delle imprese, che ha votato per smantellare il federalismo, quel poco che erano riusciti a portare meglio a casa. Da soli che male accompagnati, insomma. Dico che è molto più facile spiegare agli elettori e raccogliere consenso con una proposta che è coerente con quello che è accaduto e quindi vuol dire non allearsi. Vabbè, lei è uno di quelli perché allearsi, ripeto, sarebbe difficile da spiegarla l'alleanza. Lei è uno di quelli che dice almeno in questa tornata dobbiamo andare da soli, insomma, l'ha già detto in maniera abbastanza chiara. Oggi la Padania. Voi traducete a modo vostro. No, ma quello lei l'ha detto. No, sto dicendo le mie frasi. Insomma, io sono stato un po' più democristiano nel dire la cosa. Sì, però lei dice che adesso la Lega è meglio che vada da sola alle elezioni. Non è che ho detto. Dico che è più lineare rispetto a quello che è accaduto da due anni a questa parte, perché ci metto anche l'ultimo anno di governo con Berlusconi, che per noi è stato decisamente difficile ma oggi la Padania, per esempio, scrive un titolo: corriamo da soli, basta mummie. Cioè, anche per lei Berlusconi è una mummia? Un po' mummia, dai, come Liberazione, insomma, il ritorno della mummia. Mummietta, diciamo. No, è mummietta perché è mummia. Mummietta, una mummietta perché è piccola, mica alto Berlusconi. Sembra quasi che anche voi siate colti da questo anti-berlusconismo che c'è nel nostro paese molti anni a questa parte. No, è chiaro che Berlusconi rappresenta tutto fuorché il cambiamento, ecco, quello credo sia piuttosto scontato. Per cui lei non lo definirebbe mummia come la Padania? Ma la Padania non so se si riferiva c'è la foto di Berlusconi con la Pascale c'è la foto di Berlusconi ma lei non legge la Padania mi sa l'ho vista però non ho ben presente ecco, se appunto. Il titolo si riferisce alla foto di Berlusconi insomma adesso di solito nei giornali i titoli si riferiscono alle fotografie che ci sono sotto. Senta una cosa, ma ha ragione la Lettizietto quando dice che ha rotto il cazzo con Berlusconi? Sì. Diciamo che Berlusconi non gode più molto delle simpatie della gran parte. Ma perché lei è così democristiano? Lei? Cioè, perché io dico le cose con uno stile che lo so. Altrimenti io vengo a condurre la zanzara e voi fate i sindaci. Però è vero che ha rotto il C è una cosa che sintetizzava un po' tutto bene. Diciamo che mentre nel 2008 voleva di un'ampia fiducia da parte degli italiani, adesso c'è un'ampia parte degli italiani da votarlo come premier, non lo voterebbe. Però quando ha sentito la Lettizietto dire quelle parole, ha detto sì, ha ragione la Lettizietto. Qua quando ho sentito la Lisetto dire quelle parole, siccome la Lisetto è anche brava, ho riso perché è vero quello perché la Lisetto è simpatica. Vabbè. Pubblicità, torniamo subito con Flavio Tosi, sindaco di Verona, anche la settimana prossima. La voglio qui a Milano, il 18. La voglio qui a Milano il 18, Tosi. No. La voglio qui, poi spiegheremo perché. Riprendiamo col sindaco di Verona, Flavio Tosi. Parenzo, ci sei? Certo che ci sono. Senta, Tosi, Berlusconi da Bruxelles dice che vuole la grande ammucchiata, tutti dentro, La grande ammucchiata, Lega compresa. La Lega, sì, la politica, Berlusconi, queste cose, insomma. No, ma non ho capito di che tipo di ammucchiata parla. Beh, ammucchiata politica, naturalmente, la grande ammucchiata politica. Cioè tutti i moderati insieme contro la sinistra, capito? Questo vorrebbe Berlusconi, tutti insieme. Cioè, praticamente è stato al governo con la sinistra fino adesso. Sì. E adesso dice di andare tutti contro la sinistra. Sì, vabbè, sì. Così dice, sì. Dunque? Sono tutte le cose strane del nostro paese. Con, mezzo matto. Ma diamo una definizione. No, poi dice a noi. No, perché la cosa è speculare, perché dall'altra parte. Sì. C'è Bersani. Hanno fatto le primarie, però. Che ha governato fino adesso con Berlusconi e adesso dagli addosso a Berlusconi. E sono stati al governo assieme. Vabbè, insieme su, hanno sorretto. Sono stati al governo assieme, hanno soltanto assieme, fianco a fianco, a braccetto fino adesso. Però Tosi dà a noi degli anti-berlusconiani, quando oggi ha definito in un'intervista al Fatto Berlusconi un barzellettiere. Cioè pure lei, non è che ci va leggero, cioè su Berlusconi. No, allora, che Berlusconi, sapete che, come sono io, come sono tutti gli italiani, che lui una volta faceva lo showman, qualcosa del genere, quando ha cominciato sulle navi, sulle navi, esatto, sì. Quindi è una persona che sa raccontare bene le barzellette e anche bleffa molto bene. Quando uno racconta la barzelletta o bleffa, di fatto dice delle cose che magari non sono proprio del tutto vere. Cioè fa molto meglio quello che la politica, dice lei. Io dico che in quello è sicuramente molto bravo, sulla politica è riuscito a farla molto bene fino a un po' di tempo fa, sì. E adesso evidentemente non tanto, perché se gli italiani non lo vogliono più, forse un motivo ci sarà. Però come lo vede lei, proprio anche fisicamente, non lo vede un po' bollito, ormai fuori fase? Beh, come... sempre i capelli neri però, eh? Sempre i capelli neri. Diciamo che... Se il paese avesse un premier, sì. Se per caso lui venisse candidato e vincesse, sì. Cosa improbabile, un premier di 76 anni, sì. Avremmo il premier meno giovane di tutto il mondo occidentale. Cioè faremo ridere un po', insomma. Sì, beh, per quello abbiamo fatto ridere anche per altro, quindi... Ma lei una barzelletta da Berlusconi l'ha mai sentita? Cioè, ha avuto mai un... Beh, una volta sì, quando ci vedemmo nel 2007 quando le comunali di Verona, sì. Che mi raccontò che tutti gli altri partiti del centrodestra non mi volevano, e aveva deciso un altro candidato e mi disse che dovevo ritirarmi. Io mi mise a ridere la crepa pancia, perché appunto era una bella barzelletta. Ma quella là, ma una barzelletta vera? Sì, un paio di volte anche. Ci ha provato, ma lei... Mi sa che... No, la racconta bene. Mi sa che si è messa Uno deve distinguere quando dice la verità e quando dice barzellette. È difficile capire, cioè, quando Berlusconi parla... È che le bugie hanno le gambe corte. Scusi un attimo, Tosi. Adesso non pensate che sia il doppio senso anche su questo. Noi non pensiamo mai al doppio senso. Scusi un attimo, ma oggi c'è anche una novità. Cioè, perché è tornato a parlare Bossi. Ora, su questo, lei per adesso su Berlusconi può fare sì, dire, non dire, però su Bossi qualcosa bisogna dire, perché, insomma... Signor Bossi ha ritirato fuori la storia dei fucili. Cioè, primo ha detto che si ricandida, secondo ha detto a meno che la Lega non tiri fuori i fucili. È vero che i fucili, per carità, adesso li mi verrà a dire, è sempre la solita metafora, però insomma quando uno evoca i fucili poi ha parlato anche, insomma, raggiungere la forza nelle regioni del nord, e quello va bene, lotta in Parlamento, lotta popolare, insomma basta con sti fucili, lo dica Bossi chiaramente, cioè non vogliamo più sentir parlare di fucili, o no? Può darsi che intendesse fucili giocattolo. Adesso siamo qua, io sono qua nel mio municipio e fuori sono i banchetti di Santa Lucia che vendono tanti fucili giocattolo. Probabilmente Bossi si riferiva ai fucili giocattolo. Ma non si riferiva ai fucili giocattolo. È Natale, siamo tutti più buoni. Sì, però diciamo qualcosa. Fucili giocattolo per tutti. Vabbè, ma anche i fucili giocattolo non sono una cosa bella comunque, eh? Cioè non è che andare in giro, né un militante della Lega che va in giro con i fucili giocattolo sia una cosa positiva. Fucili giocattolo, cioè, li usano i bambini. Sì, però Tosi, diciamo la verità, basta parlare di fucili, cioè non arriveremo mai alla come dire, all'autonomia, alla secessione. No, ma bisogna proprio augurarsi che non accada mai che si debba ricorrere ai fucili, a qualsiasi forma di violenza per cambiare le cose nel paese. Certo, dunque mai evocare i fucili. Lo dica Bossi, basta, non vogliamo più sentire, la Lega è cambiata, non vogliamo più sentire paese. Se no la Lega che è cambiata fa se Bossi dice che bisogna prendere i fucili? Vabbè, ho capito, ma il segretario federale della Lega è Maroni. Cioè, quello che dice Bossi conta poco, dice lei. No, dico che la guida del movimento è di Maroni. La esprime Roberto Maroni. Che non parlerebbe mai di fucili. Direi proprio di no. Però ho capito, però, insomma, ma alla fine lei... Bossi. Quella di fucili è una metafora. Ma sì, d'accordo, però lei lo sa per meglio dire di me. Che uno, per dire che uno è incazzato in quel senso lì. Però lei sa meglio di me che le parole contano e sono importanti. Ma sa che al bar se ne dico, quando uno va al bar dice adesso facciamo qua e là, su e giù, ogni tanto uno... Beh, allora ecco. È come se fosse stato al bar, allora, un po' ubriaco, dice lei. No, nel senso che al bar nel, parlare comune, nel parlare comune talvolta si usano delle iperboli. Sì, d'accordo, appunto, cioè, al bar se ne dicono tante, dunque se... Io non capisco, appunto, secondo lei si deve ricandidare o no? Chi, Bossi? Sì. Questo dovrà decidere il Consiglio federale. Vabbè, facile come risposta. Lei che dice? Cioè, lei addirittura ha detto che potrebbe essere candidato premier, no? Tanto la campagna elettorale durerà poco, è una cosa simbolica, perché comunque è evidente che non sarà eletto. Sì. E questo l'ha già detto. Lo conferma, sì? Certo. Allora, benissimo. Allora, il candidato premier vorrebbe avere Bossi in lista, sì o no, al Senato o alla Camera? Io accetterei, sì, come sempre, le decisioni del mio movimento, del Consiglio federale, del quale faccio parte. Vabbè, ma qualcosa la dirà? La sua opinione qual è su Bossi? Al di là del consiglio, delle decisioni del Consiglio federale, l'opinione di Flavio Tosi, sindaco di Verona, persona che molti vedono come futuro leader della Lega, addirittura qualcuno pensa che lei potrebbe diventare il presidente del Consiglio nel futuro. La sede più idonea nella quale discutere di questo tipo di situazione è il Consiglio federale, perché è un tema evidentemente che ha molto delicato. È un tema che ha una sua delicatezza. Una sua delicatezza. Però è anche vero, però è interessante sapere la sua opinione. Cioè, lei ce lo vede Bossi ancora una volta in Parlamento? Cioè, se voi volete rinnovarvi, Bossi può essere messo in lista, sì o no? Però se serve. Il rinnovamento non può essere solo a parole. Beh, il rinnovamento non vuol dire che tutti quelli che sono al di sopra di una certa età dobbiamo buttarli al mare. No, non è l'età, non è la questione dell'età, è questione di ruoli che uno ha avuto, della storia politica. Sì, che uno però ha è anche vero che Bossi alla Lega ha dato tantissimo, alla politica ha dato moltissimo e quindi rispetto ai 630 parlamentari ci può stare anche lui, insomma, ecco, ma può fare ecco, politica tra i 600, tra i 630 parlamentari ci può stare anche lui. Dunque lei non vede in maniera negativa il fatto che Bossi possa stare nel prossimo Parlamento? Ma ripeto, un discorso del segretario federale, che è quello che determina la linea di un movimento, sì, e fra l'altro di una grande forza politica del, sì, paese e del nord. Un discorso è un parlamentare. Ma se volesse portare anche suo figlio, siccome ci saranno le liste bloccate? Però siete dei simpatici anche voi sulle barzellette. Per perché è la barzelletta. Adesso, figlio, l'onorevole Renzo Bossi suona benissimo. No, non può essere su. Cioè, mi sembra un'ipotesi assurda, no? Tosi, un'ipotesi fuori dal mondo. È un'ipotesi fuori dal mondo. Fuori dal mondo. Dunque, Bossi sì, e diciamo altri della famiglia Bossi. Cioè, no. È più facile però, fine del mondo dei Maya piuttosto che Renzo Bossi in Parlamento, questo lo possiamo dire, no? Vabbè, sono due cose pressoché impossibili. Ecco. Scusi un attimo, però adesso questa non è nemmeno una questione sul tappeto, ovviamente. Però Bossi e i fucili, io non vorrei sfuggire a questa cosa. Cioè, in questo momento la Lega, perché ci sono tante anime ancora, eccetera, però domani vedrà che questa frase su fucili avrà una sua rilevanza nel mondo mediatico, no? Perché quando uno dice una cosa del genere alla Camera, a meno che la Lega non tiri fuori i fucili, cioè, esalta Berlusconi dicendo che è una brava persona, che non ha mai fatto suicidare nessuno. Ma probabilmente Bossi intende che si tirano fuori i fucili, ma mica li si usa. Cioè, vabbè, allora secondo lei tirare fuori i fucili va bene, ma non usare. No, Tosi, io so che lei non la pensa così. Io so che lei pensa che questa frase di Bossi è meglio che era meglio non dirla. Io non la direi. Ma era meglio non dirla. Ma io non la direi. Ma era meglio, in questo momento non avevate bisogno di questa frase di Bossi sui fucili, diciamo la verità. Ma non è che questo, cioè rispetto a quello che dice Berlusconi. Beh, che c'entra, scusi. Come? Scusi, Berlusconi dice un giorno una cosa, un giorno un'altra ancora. almeno sì. Bossi è lineare nessuno in quello che ha sempre detto. Sì, è vero, la storia dei fucili l'ha sempre detta. Perché è sempre ferma quella roba là. E concorderete che l'ha sempre detto e poi non li abbiamo mai tirati fuori. No, non l'avete tirati fuori, però voglio dire, me lo dica chiaramente, è sbagliato usare questa frase qua. Io questa frase non la userei. Vabbè, però non vuole dire Bossi sbaglia. Ancora c'è un po' di timore, non dico timore reverenziale, ancora c'è un po' di... No, no, si chiama rispetto. Rispetto per gli anziani. No, per un leader che ha fatto la storia della Lega. Rispetto per una persona che ha dato tantissimo alla Lega. E se io oggi sono seduto sulla poltrona nella quale sono seduto in questo momento che parlo con voi, è merito di Umberto Bossi. Beh, insomma, adesso a ricordare alcune cose degli ultimi mesi prima della sua candidatura, non è che proprio smaniasse. No, ma io parlo del 2007, mica del 2012. Ah, ecco. Ho capito, però se non venivo eletto nel 2007, mica venivo rieletto nel 2012. Sì. Comunque anche lui ha perso un po' di feeling con la gente del nord, come lei dice di Berlusconi, anche Bossi ha perso questo feeling. No, ma il problema è che, io non è che se adesso io ho 43 anni, se io a 73 anni facessi sindaco di Verona saremmo rincoglionito, cioè non è che posso stare qua 30 anni a fare. No, ma ecco, lei dopo aver fatto il sindaco di Verona dove si vede? La regione Veneto oppure con ruolo nazionale? Magari a riposare un po', perché alla fine di 10 anni sarò distrutto. Comunque tirare fuori i fucili sono cose da pazzi, si può dire, sono cose da pazzi. Diciamo che sono cose da pazzi. È meglio che non succeda. Ma sono cose da pazzi. Non è mai positivo evocare scontri violenti, perché appunto non ce n'è proprio bisogno nel paese. Non viene a Milano la settimana prossima a vedere Verona? No, perché nonostante io sia un grande tifoso dell'Hellas, indiscutibilmente, sì, però io penso che anziché pensare alla Coppa, i giocatori dell'Hellas devono pensare soprattutto al campionato. Dunque, vincere a Palermo è prestigioso, però se perdi col Brescia e col Cittadella è molto peggio. Dunque snobbiamo l'Inter, andiamo a... No, snobbiamo, io direi che dovrebbero pensare molto di più e con molta più... attenzione al campionato, capito, che ci interessa andare a tutti, a loro e a noi, alla città, andare in Serie A, mentre invece il discorso della Coppa lascia il tempo che trova. Grazie, a presto. Carmine, provincia di Benevento, buonasera. Buonasera, sono Carmine. Sì, l'ho detto. Lo sappiamo. Le volevo dire un paio di cose. Sì. Una, lei si potrebbe far promotore, visto che dalla mattina alla sera fa notare tanti disservizi, tanti sprechi, tante cose, dai politici agli uscieri, tutti gli sprechi che lei fa notare dalla mattina alla sera. Vabbè, allora? Farsi promotore di una petizione popolare, anche a livello di numeri e tutto il resto, da segnalare poi alle autorità competenti. Ma di che cosa? Magari, ma di che sta parlando? Niente, però se lei mi riesce a raccogliere 1 milione di firme, qualcuno... Ma su che cosa? Notare. Ma su cosa? Su tutti gli sprechi che avvengono nella politica e nella vita quotidiana. Sì. Ma io non faccio, non promuovo nessuna sottoscrizione, Carmine. Come? Non promuovo nessuna sottoscrizione. Fai male. Non ci provate. Ma a fare che? Ma su perché? Che cosa? No, una sottoscrizione da parte di tutti i cittadini. Ma su che lei... cosa? Ma su quale qual è l'oggetto della discussione? L'oggetto della discussione è che lei fa notare dalla mattina alla sera gli sprechi. Ma non è vero, tra l'altro. Come? Vabbè, arrivederci. Giuseppe da Rimini. Poi a te lo chiedono di fare una mobilitazione. Giuseppe, a dica. Sì, mi sentite? Forse mi è sfuggito che l'Europa oggi ha fatto lo stesso tipo di intervento della Letizetto, cioè ha detto ci avete rotto i coglioni, perché indicando Monti che cosa ha voluto dire? Che noi abbiamo dimostrato di essere incapaci di utilizzare lo strumento democratico, e siccome in Europa c'è una tendenza molto chiara alla cooptazione di certe persone che possano garantire l'integrazione europea, che comunque è un processo indispensabile, a meno che un paese non si voglia chiamare fuori. Allora? E allora lo devono fare con uno di loro. Uno di loro è Monti, tra l'altro una persona che non è ricattabile dal potere giudiziario. Quindi, secondo me, noi abbiamo molto da guadagnare come paese da una candidatura di Monti, indipendentemente dall'idea che uno possa avere, anche perché Bersani comunque ha un fardello troppo grosso, rappresenta una parte che ha degli interessi particolari, come la parte che era con Berlusconi. Quindi non ho capito chi è che rappresenta Vendola, chi rappresenta Bersani? Bersani rappresenta tutto il mondo cooperativista, tutto il mondo rosso, che comunque ha per certi versi degli interessi particolari come li ha avuti il mondo che era dietro Berlusconi. Sì. Perché, ecco, quindi in queste, queste tendenze in Europa non si possono più avere. Cioè, ma che cos'è che non si può avere? Ma che sta dicendo? Lei sta dicendo che Bersani non è credibile in Europa perché c'ha dietro le cooperative, ma si rende conto della stronzata che dice o no? No, non è una stronzata, perché gli interessi particolaristici in questo momento in cui bisogna fare un'integrazione europea. Interessi particolaristici, sì. Sì, certo. Il mondo della sinistra come il mondo della destra in questi anni cosa ha dimostrato? Di perseguire degli interessi particolaristici. Sì, ma sono due ambiti diversi. Cioè certo. Sono due piani diversi. Con la stessa logica. Con la stessa logica. Va bene, grazie Giuseppe. Giovanni dalla provincia di Vicenza. Giovanni, mi sente? Dica. Sì, sì. Io vorrei riportare... mio punto di vista, sono un imprenditore di una piccola impresa e di alcuni miei naturalmente colleghi con cui parliamo. Il ritorno di Berlusconi per noi è abbastanza catastrofico perché esportando il 95% all'estero, sì, e con la nostra tecnologia che notoriamente è molto elevata, ci scontriamo con tedeschi, cinesi, americani. E allora che c'entra il ritorno di Berlusconi con problemi che sono strutturali? C'entra perché quando andiamo a proporre la nostra tecnologia nel mondo, la gente ci dice: ah, italiani, bunga bunga, Berlusconi. Ma non è così, ma non è questo. Ah, è così. Sì, ma che glielo dicano, è così. Ma che la cosa. Non è che non vendono le merci per colpa perché c'è bunga bunga. No, è proprio così. Le assicuro che la nostra credibilità. Ci sono problemi. Ci sono problemi più strutturali che vanno al di là della questione del bunga bunga. Guardi, forse non so se lei è imprenditore, io so che. No, ma non è questo il punto. Lei mi deve dire un affare che le è saltato per colpa del bunga bunga. No, saltato. E allora, certo, mi dica un affare che lei è saltato per colpa del bunga bunga. Assolutamente, mi dica, mi racconti. È saltato. O almeno dobbiamo abbassare i prezzi. Ah, per colpa del bunga bunga. Ah, sì, certamente. E perché? Non mi faccia un esempio. Per la non solidità, per l'immagine non solida. Se lei ha dei prodotti buoni da vendere e se è competitivo sul mercato, ma sai che gliene frega i suoi interlocutori se c'è bunga bunga o no, Giovanni? No. Non diciamo stupidaggini, dai. Non è così. Ma poi c'è una questione generale di credibilità del paese che è un altro discorso. Ma non è che lei non vende i prodotti che ha perché c'è il bunga bunga. Su, Giovanni, dai, non diciamo stupidaggini. Io ho dovuto fare una campagna di concretizzazione dell'immagine della mia azienda nel mondo perché non era sostenibile. Lei che lei fa un prodotto italiano, allora mi frega. Lei è uno che frega le persone. Sì, perché c'è Berlusconi. Ma lasci perdere. Ma è così. No, guardi. Non è un punto di vista politico, è un punto di vista pratico. Giovanni, molto pratico. Potrà essere anche un punto di vista pratico, ma le assicuro che io ho conosciuto un sacco di imprenditori del Nord-Est che mi hanno parlato di un sacco di problemi, anche per quello che riguarda, come dire, l'immagine dell'Italia, va benissimo che alcune volte si sentono a disagio su e giù. Se uno ha un prodotto da vendere e ha un prodotto buono da vendere, non c'è nessun interlocutore che si rifiuta di comprare quel prodotto perché c'è Berlusconi in Italia. Questa qua è una stronzata gigantesca. Allora parliamo di. Di che parliamo allora? Dell'immagine ma del quello governo. È un altro discorso. Con Monti è completamente diverso. Sì, ma quello non c'è dubbio, ma non credo che se andiamo a vedere i dati sulle esportazioni, su queste cose qui, non credo che siano aumentati in maniera particolare. Comunque adesso non ce li ho sotto mano, ma non è che. Parlo di piccola e media industria, non sto parlando di grande industria. Piccola e media industria, io ho difficoltà ad andare in giro e presentare il mio prodotto italiano perché l'Italia. Perché? Almeno avevo difficoltà. Adesso, in questi ultimi sei mesi, le cose sono completamente cambiate. Entriamo nelle aziende molto più tranquillamente. Questo va bene, è il punto di vista. Va che bene, poi sia... no, per carità, va bene. Grazie, qua, grazie. Well now, little mosquito, there must be well some reason for you that I just can't see. Well there is, well you're right son, you see God put me here just the same as he put you, so I'm nature's mosquito. Ma dimmi la verità, Parenza, a te fa godere tantissimo questo Monti che può candidarsi, che può candidarsi e dunque mette in difficoltà sia Berlusconi che Monti che Bersani, sia Berlusconi che Bersani. Ma infatti, dimmi la verità. Di tutto, è Monti, io ho detto anche da tempo. perché tu, alla fine tutti sembra che lo vogliono sfanculare, ma tutti invece, chiedo scusa se uso questo termine politologico, sfanculare, dovrebbero sfanculare tutti, ma tutti invece ne hanno bisogno. Questo qui è andato pure a fare cucù a Bruxelles, che l'hanno invitato lì al PPA la sera Merkel, ha telefonato e dice: Mondi, vieni a Bruxelles che facciamo scherzetto a quel stronzo di Berlusconi che ha detto che sono culona inchiavabile. Subito quello è un aereo. E secondo il Cavaliere, il PPE, il famoso PPE di cui tutti parlano nei bar, è preoccupato dal ritorno della sinistra. Ha rinnovato l'invito a Monti. Poi la Merkel ha smentito che di avere spinto Monti a candidarsi. Ah, Daniele, scusa, sono alla radio in diretta alla Zanzara. Ti posso chiamare dopo? Ma chi è? Grazie Daniele, grazie. È un grandissimo imprenditore. Sì. Che è quello che ha creato questo albergo diffuso a Santo Stefano di Sessanio. Ma chi se ne frega? È un architetto famosissimo, si chiama Kilgren. Vabbè, allora? Daniele Kilgren. E questo è un talento italiano da sentire. Vabbè, allora? No, mi ha telefonato, voleva parlarmi. Vabbè. Detto che era al telefono. Sergio da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Complimenti per la trasmissione. Ma volevo solo dire che io non voterò Monti sicuramente, non so chi votare ancora, ma sicuramente non voterò Monti, sono un ex elettore del PDL, non voterò neanche PDL, nessuno che ha appoggiato Monti in quest'ultimo anno. Tutto qua. Vabbè. E vedo con favore, devo dire la verità, questa, pur non avendo mai votato Lega, vedo la Lega con favore per il suo rinnovamento e anche la nuova lista di Tremonti, che mi sembra che si avvicini molto a quello che è una volta il PDL, nel vero spirito. Che lei ha capito che cosa propone la lista di Tremonti? Ma ho letto il manifesto su internet manifesto, mi piace soprattutto quello che dice sull'Europa, sulle regole europee che sostanzialmente ci stanno un po' strette, e sull'euro. Grazie, Paolo da Pescara, buonasera. Non c'è, Giuseppe da Bologna. Buonasera. Dica. Buonasera Cruciani, salve. Io dicevo, a proposito della querella tra Favia e Grillo, desidero segnalare che Favia in realtà è stato nominato da Grillo. Beh, certo. In quanto lo stesso giorno in cui è stato nominato, a Bologna si tenevano le primarie nel 2008 ed erano state indicate altre persone. Quindi per questo... Adesso non ricordo la circostanza, ma insomma... Sì, al Baracano... E furono nominate, elette altre persone, poi mi scelse Favia, insomma, quindi chi la fa l'aspetti, come si dice. Grazie, Gino da Torino. Sì, buongiorno. Buonasera. Volevo spiegare in quattro parole quello che è successo a Emilio e Fede. Sì. La mia versione, chiaramente. Qual è la sua versione? La mia versione è questa. Praticamente Emilio e Fede, essendo uno che ha sempre speso tanti soldi, ha avuto molti soldi nella sua vita e ha potuto disporre di notevoli cifre, in questo momento probabilmente si trova molto in difficoltà, come tutti gli italiani. E se lei, quando ha sentito quando lui gridava, ha detto una frase: io devo prendere solo 15.000 euro, corrispondono a 800 euro magari di un operaio normale oggi come oggi. Per questo lui è disperato, perché deve, con 15.000 euro non ci fa più niente lui. E perché non ci fa più niente, secondo lei? Il suo tenore di vita, no? Beh, forse c'è qualcos'altro. No, io penso che invece sia così. Sì, ho capito, il tenore di vita, però perché cosa? Il tenore di vita... Il tenore di vita per mantenere tutto quello che lui si è costruito. Quando uno è ricco, ha un tenore di vita molto elevato. E quando si trova a dover prendere solo 15.000 euro, come ha detto lui, perché l'ha detto chiaramente gridando, mi devono dare solo 15.000 euro, come fa a vivere sto povero uomo? E che ne so? È dura, eh? Beh, è durissima, certo, soprattutto se uno con magari... 15.000 euro. Se uno ha fatto debiti di gioco, sicuramente. Debiti di gioco, questa è la grande problematica di Emilio Fede, tutti lo sanno, no? Quanti soldi si è mangiato lui nel gioco? Bonagge, sono Cocafone, sono frate Berlusconi, a suo frate non favore. Ma tu lo sai, Parenzo, con chi lavorava, con cui si esibiva la nuova Lady Berlusconi? La nuova Lady Berlusconi? Ah beh, nel dici in quella trasmissione, come si chiama quella televisione? C'è una trasmissione che si chiama Telecafone, su Telecapri, dal 2000 al 2005. Telecafone, condotta... Sì, sì. Da un signore che fra poco sentiremo. Bene. Il quale ha una rassomiglianza, diciamo, piuttosto vaga, anche se poi se uno va a vedere in realtà qualcosa c'è, con Berlusconi, tant'è che addirittura veniva presentato in alcune trasmissioni come il fratello di Berlusconi. passamo questo disprezzo, fammi scia sotto la monnezza, tu sei forte, sei potente. Da qui viene la nuova fidanzata di Berlusconi, la signora Pascale, Oscar Di Maio, buonasera. Buonasera. Come buonasera. Andiamo? Come andiamo? Tutto bene, tutto bene. Ma lei che fa oggi, Di Maio, dopo aver fatto Telecafone? In questo momento ho finito le prove della commedia Il morto sta bene in salute. Ah, lei fa anche che l'attore? Lo faccio l'attore da 40 anni. Da 40 anni? 53. Scusi un attimo, Di Maio, ma quando ha conosciuto la Pascale? Ma io credo di averla conosciuta nel 2001-2002. Cioè, era minorenne 2003. Praticamente. No, non era minorenne, credo, no? 2001-2002? Ma io mi ricordo che forse era minorenne. Sì, sì, era minorenne. Vabbè, ballava in quella, faceva diciamo la valletta a Telecafone nella trasmissione, no? Più che la valletta, faceva dei piccoli personaggini e poi faceva da coreografia e sì, nelle canzoni che io cantavo insieme a altre ragazze. Ma lei se lo sarebbe... La figlia compreso. Se lo sarebbe aspettato, se lo sarebbe aspettato no, di vederla accanto a Berlusconi allo stadio, ormai una sorta di Lady Berlusconi, nuova Lady Berlusconi, Di Maio. Ma io non so niente, come, che significa Lady Berlusconi? Beh, è fidanzata con Berlusconi. Non l'ha visto, tutta per Come, mio fratello... Mio fratello si è fidanzato, io non so niente. Appunto. Questo non si fa, questo non si fa. Non si fa, non si fa. Gli dica qualcosa però suo fratello. Però ha fatto bene, perché tutto sommato Francesca è vecchia, però si riporta bene. C'ho 50 anni di differenza già, Di Maio. Va bene, ma l'amore non ha età. Non ha età l'amore, non ha età. Di Maio. L'amore è cieco, disse la talpa. Di Maio, ma l'ultima volta che l'ha sentita quando è stata la Pascale? Io la Pascale l'ho sentita forse 7-8 mesi fa, quando fui chiamato da Platinette. Sì. Che anche lei voleva sapere qualcosa, la mia conoscenza con la Pascale. Sì. Ma insomma, era già così ambiziosa all'epoca, Cesare? Ma no, io quando è venuta a casa mia era poco più di una bambina, insomma, una signorinella, certo. Anche abbastanza timida. Ma secondo lei è innamorata di Berlusconi? Lei che è il fratello di Berlusconi, secondo lei è la Pascale innamorata di Silvio oppure no? Penso di sì. E come farebbe accedere al fascino del cavaliere? Cioè come si fa a non cedere, dice lei? Certo. Ma lei prima era innamorata politicamente, aveva una sorta di adorazione. Ma quelle, le donne si innamorano di queste cose. Noi maschietti ci innamoriamo più della fisicità, le donne invece più del fascino, del potere. È sorpreso di questa relazione con Berlusconi? No. No, io per la verità sono contento. Sono contento. Sì, perché il povero fratello mio è attaccato da tutti continuamente. Sì. È anche giusto che trovasse una ragazza semplice che lo gratificava. Certo, poi una relazione stabile, no? Serve a un certo punto. Sì, certamente. Avranno anche dei figli, cose, qui sarà la famiglia in espansione. Lei dice, Certo. Ha parlato con daranno dei nipotini, mi daranno dei nipotini. Ma lei che è insomma intimo, con Berlusconi dico, naturalmente essendo il fratello, ma è in programma una cosa breve a stretto giro? No, ma io purtroppo sono il fratello di Berlusconi, però lui non mi vuole troppo bene, non perché lo sa. Non mi vuole riconoscere. Perché allora lui la parentela l'ha saputa in tarda età. Ho capito. Il tutto, a Berlusconi piacciono le donne, piacciono pure a me. Sì, certo. Però questo vizio noi l'abbiamo ereditato da papà nostro. Il papà di Silvio si trovò a Napoli a Porta Capuana. Ebbe un'avventura con una mondana. Sì. Quella mondana era la buon'anima di mia mamma. Ho capito. Ecco perché, infatti lui non mi vuole riconoscere. Ho capito. E se non mi facesse fare un passaggio perlomeno una volta a Canale 5, a Canale 4, Italia 1. E invece niente, Niente. Vabbè, comunque. Però io c'ho una cosa più di lui. Cioè? L'apicella vero. il grande Apicelli, cioè il papà di Mariano, Antonio, è lui che sta nel mio videoclip del fratello di Berlusconi. Quello del fratello di Berlusconni. È l'Apicelli originale. L'Apicella, quello vero, il padre, insomma. Sì, il padre. Quello là proprio bravo. Non che Mariano non sia bravo, per l'amor di Dio. No. Cioè, ma lei perché non va a cantare ogni tanto del Berlusconi, scusi? E perché non mi chiama? Le piacerebbe non anche lei essere stipendiato da Berlusconi come Apicella? Mi fidanzo pure io. Si vorrebbe fidanzare pure lei con Berlusconi, mi dica la verità. Fa comodo uno stipendio. Ma sempre per il fascino, non per l'interesse. Per carità. Anche la Gregoraci non è innamorata di Briatori. Ma sì. Ma noi non diciamo mai niente, non vogliamo mai sospettare che dietro ci siano interessi di altro tipo, se non i sentimenti puri. Ma chiede aiuto alla Pascale, no, per entrare nelle grazie di Berlusconi a questo punto. E non tengo più il recapito. Non risponde più. Ha cambiato il telefono. Ha un vecchio amico come lei, uno l'ha introdotta insomma nel mondo. Insomma. Ma com'era da giovane? Mi dica la verità, com'era? Devo dire la verità. È cambiata molto in faccia anche adesso. Si vede che qualche ritocchino l'ha fatto. Ma io non l'ho vista più da quando ho fatto in televisione, però si vede che è un po' cambiata. E mia figlia l'ha notato questo fatto. Sua figlia, sempre sua figlia. Infatti l'ha vista e non l'ha conosciuta. Non l'ha riconosciuta proprio. Visto, ma che è lei? Ha detto che è lei. sì, poi dopo ha detto, papà, ma questa era Francesca della Scala. Mi sa che qualche interventino c'è stato. Certo. Vabbè, Di Maio, guardi, senta come la lascio, senta. Come? Sono Cocafone, sono frate Berlusconi, ma suo frate non fa vota. Non mi può proprio accettare, se mio figlio stessa vada, ma sto piezzo disgraziato, ma schifo. Oscar Di Maio, grazie, a presto. Auguri per Natale a tutti. Mi raccomando, chiami la Pascale, si faccia dare una mano con Berlusconi. Auguri, grazie. Un concertino ci scappa, dai, su. Anche lei, qualche migliaio di euro. No? Possono arrivare. Basta che mi paga l'IMU. L'IMU, basta quello. È pure colpa sua che c'è quest'IMU adesso, diciamo la verità. Ma l'aveva tolta? Ma l'ha tolta, però poi togliendola ha creato un casino. Grazie Di Maio, grazie. Grazie a voi. Giorgio da Milano, buonasera. Giorgio? Niente, Mauro da Nizza. Sì, buonasera. Vada. Allora, io volevo dire semplicemente questo, per la campagna elettorale che si appropinqua. Sì. Allora, secondo me Bersani dovrebbe rifiutare il duello che sicuramente questa volta Berlusconi sarà disponibile. Ma Berlusconi non sappiamo ancora se sarà candidato, cioè non sappiamo nulla. Vabbè, diciamo nell'ipotesi in cui fosse candidato, visto che sta dicendo un giorno sì, un giorno no, ma nell'ipotesi, siccome avrebbe già detto... Che comunque parteciperà a tappeto, a talk show, perché naturalmente deve recuperare parecchio questa volta. E quindi, contrariamente al passato, quando era la sinistra era in vantaggio, comunque ha sempre signorilmente accettato comunque i duelli con lui in televisione, vedi Prodi, Rutelli, eccetera. Contrariamente a quello che invece faceva lui quando era in vantaggio, per esempio nel 2001 e nel 2008. Vabbè, insomma, che dovrebbe fare Bersani? Non dovrebbe accettare il confronto con Berlusconi? Assolutamente, vabbè. Non dovrebbe accettarlo. È in vantaggio, può solo perderci. Ora, perché bisogna fare i signori con lui? Lei sta andando già troppo avanti. Grazie Mauro. Rosa Maria da Genova. Rosa Maria è già sull'ambulanza. Perché? Che è successo, Rosa Maria? Io mi metto le mani avanti, sono già nell'ambulanza e sono praticamente sul piroscafo Titanic che sta affondando e sto sentendo la vostra orchestra, quindi moriremo perlomeno con una risata. Io mi avevo fatto le corna e mi sono toccato ovunque, cara Rosalia, anzi ho toccato ferro soprattutto. Senta, io vi volevo dire, un attimo di cosa seria, lo so che a voi fastidio, però dipende, ecco appunto, bravo. Allora, a questo punto la Grillo, allora, cosa si fa in quelle condizioni? Si va a vedere. Cioè, io cosa ho fatto? Ho detto, qui voglio capire cosa sta succedendo. Vado dentro, cioè quando loro si riuniscono. E allora lei è andata? Certo che sono andata. Ma dove? A Genova? Io oltretutto, sì, certo, dove proprio abita Grillo. E che è successo? E che è successo? Che Grillo non c'è proprio. Ma non c'è proprio. Fanno tutto loro e sono già un bel po' che si riuniscono. Sì. E certo che adesso sono agli inizi, quindi... Ma io non ho capito niente, cosa ha visto di strano, scusi Rosa Maria? Ma non ho visto niente, appunto vi dico che non ho visto proprio, ho visto tutte le cose molto più regolari che negli altri partiti. Mm. Cioè loro si riuniscono, hanno eletto i cinque sì. rappresentanti in consiglio comunale, si ritrovano al mercoledì sera in una... Vabbè, lei non ci vede niente di particolarmente... Ma no, anzi, vedo una cosa... interessantissima. Adesso a Genova, per esempio, sì. il comune voleva vendere tutte le farmacie comunali. Sì. Cosa abbiamo pensato noi cittadini subito? Bravi! Perché siccome a loro costa, poi costa, sì. sa che cosa costa? Il comitato di gestione, non i dipendenti, perché se li beccano tutto. Vabbè, loro, il presidente... Insomma, quei grillini quindi, sono contrari e dunque... No, e loro certo sono contrari a dire no, ce le teniamo perché come le altre farmacie guadagnano, anche queste guadagnano. Perdono soltanto perché ci sono i rapinatori. Va bene. Allora, ti presento un personaggio, caro Parenzo, che sta facendo tremare il mondo dello spettacolo, il mondo della politica, eccetera, eccetera, per alcune rivelazioni, per una storia di ricatti in cui non vogliamo entrare, in cui lei c'entra poco. Beh, una pornostar, allora... si chiama Lea Di Leo, è il nome d'arte, ma il vero nome... la conosco benissimo. Il vero nome è Sonia Faccio. Buonasera, buonasera. Bene. Buonasera. Come sta? Tutto bene. Senta, ma abbiamo... non è una voce da pornostar, però. Ma perché non è che ci sono le voci da pornostar? No, perché bisogna avere un tipo di voce particolare. No, vabbè, Parenzo è fissato con queste cose, è un po' strano. Non è una voce da quelle che uno dice, proprio una voce di quelle, no? Una voce normale, una signora normale. Allora, io però, no, una voce normalissima, certo, ma tu ne conosci di pornostar poi, no? Sei amico di diverse pornostar, Parenzo, dunque, io... Sì, questo non c'è dubbio, no, lo dici come fosse la 'ndrangheta, non c'è no, dubbio. No, per carità. Ho fatto un sacco di trasmissioni, ho ospitato questi talenti, quando lavoravo soprattutto a Milano, avevo queste, e quindi, comunque andiamo avanti, benissimo, evviva, non ha allora... la voce... Era uno che ha una voce un po' suadente, un po'. Ma perché? Ma sta parlando con una persona normale, non è che uno lavora sempre. Poi è stata, non so se sia ancora la regina delle chat erotiche, insomma, dei numeri erotici. Sì, esatto. Lo fa ancora, signora Di Leo? Diciamo che adesso è un periodo di crisi anche per le televisioni, sì. come voi sapete, quindi non sì. è che dipenda da me, dipende un po' da tutto il sistema. Cioè. Da tutto il sistema, che è Parenzo che è caduto come al solito, sì, vabbè. Senta, però io volevo trattare soprattutto una vicenda, signora Di Leo, ma sì. perché oggi l'ex vice ministro dell'economia, signor Baldassarri, si è molto arrabbiato dicendo che insomma vuole querelare. Vuole mettere in moto i suoi avvocati dopo quello che lei ha detto allora questa allora, cosa qui intanto io ho risposto a un pubblico ministero sì. che in tribunale punto primo si deve dire solamente unicamente la verità e siamo sotto giuramento non e è dunque? Che io posso raccontare le balle e dunque che cosa ha detto in tribunale sul signor Baldassarri? No, questo non posso dire su. Vabbè, ma il tribunale è un luogo pubblico, cioè nel senso si può dire. Cioè, voglio dire, sì, lei, certo, ma lei cosa ha detto? Già che è arrabbiato, sì. e quindi che io devo far incazzare pure la gente, non mi sembra il caso, visto che io in precedenza ho avuto minacce di morte, inseguimenti e di tutto di più per questo libro. Inseguimenti? Sì, no, per questo libro, sì. perché questo libro, insomma... Ma io non ho capito, ma lei ha frequentato, nel suo letto, sono figli dei politici, sì o no? Sì, senza far nomi, ma sì. Sì, senza far nomi, sì. Quali politici uno, di che tipo? 1, 2, 3, 4, 5, quanti? No, se vogliamo parlare di calcio forse è meglio, perché l'ha avuto casini, lo so. Sulla politica ha avuto casini? No, nel senso che non mi va a tirar fuori nomi di politica, di cose così, meglio tirar fuori cose più divertenti, insomma. Più divertenti, dicevi. Ma no, ma è divertentissimo, ma politici di destra, di sinistra o di centro? Vabbè, ma se mi aspettano fuori in 3-4 macchine come la settimana ma scorsa. No, ma no, quali macchine, ma quelli lì, ma figuriamoci, sono persone talmente per bene. Se uno fa i nomi dei calciatori arrivano le macchine fuori, altro che... Ma non c'è dubbio, guardi, non c'è signora dubbio. Signora Leo Di Lea, o non mi ricordo, no, politici di destra o di sinistra? O di centro? Allora, io sono per quelli che fanno le cose corrette. Certo. E dunque? Per quelli che tengono alla povera gente, non quelli che, vabbè, adesso quello che pagano 1 miliardo un calciatore al mese, no? Vabbè, ma e quello poi lasciano a casa i poveracci. Ma che c'entra questa roba qui? Ma no, adesso non mi faccia la cosa che vogliamo sapere, la vogliamo sapere anche in modo scherzoso, deve essere un dramma, evidentemente no. La cosa che vogliamo sapere è se lei ha avuto, come dire, si è fatta pagare da qualche politico per fare del sesso. Questo che non è mica un reato. Non è mica un reato, è una cosa assolutamente lecita. No, non so che non è un reato. Però poi c'è stata la questione del ricatto, eccetera, eccetera, questo è un altro discorso. Non fatto da lei, l'hanno fatto i due. Non fatto da lei, questa è l'ipotesi di reato, non fatto da lei. Quello è stato fatto dai due deficienti che amici di Mauro Marino. Ma quello vedremo, riguarda, avevano in mano il suo libro, eccetera, eccetera, che non è mai uscito. Però la cosa che vogliamo sapere è la politica. Siamo interessati a questa cosa qua. Innanzitutto, lei ha avuto una storia o comunque ha avuto un signor Baldassarri, per esempio? Ah, ma io di lui non voglio parlare. Di lui non vuole parlare? Non parlo di lui, in senso, solo in tribunale se mi chiedono qualcosa. Solo in tribunale? Vabbè. Ma erano bravi a letto almeno sti politici, o no? Almeno a letto erano bravi, perché alla Camera sappiamo come sono. Che lei dice ma che nella Camera a letto erano bravi o no? Ah, cioè non... Ma sinceramente no. Non è che preferisco quelli, insomma. Vabbè, quello... Ma questo ho chiesto semplicemente se sapevano muoversi con destrezza, questo non è che chiedo chissà che no, ma io non no, secondo me no. I calciatori sono molto meglio, vabbè. Ma è vera sta storia del vescovo? Anche qualche attore, dai. Anche qualche attore, ma è vero sta storia del vescovo con un grosso crocifisso al collo? No, io questo non ci posso credere. E allora, quello si parla ancora di tanti anni fa, quando io frequentavo un night, dove questo qua si rifugiava dentro i mezzi boschetti, dentro un night squallido con i suoi parei così, è entrato con il crocifisso. Vabbè, ma questo si travestiva da vescovo, mica era un vescovo? Non lo so. Vabbè, uno può dire di tutto allora, signora Di Leo. Cioè... Può essere, dicevano che era così. Dopo non so. Dicevano altri. Ma lei, io non ho capito, vabbè. Lei dove operava? In che senso operava? Sono mica un chirurgo. Cioè la sua operava, la sua, se lei è una pornostar, la sua sede di lavoro dove riceveva allora, questi politici? Allora, la mia definizione come artista, più che pornostar, perché io ho fatto 4 film. Artista, sì, artista, per carità. Vabbè, adesso artista è Michelangelo, su. Vabbè. Più altro ho fatto televisione, io più che film. Sì, scusi, però adesso noi dobbiamo concludere, signora Di Leo. La domanda è questa. Quanti politici, artista del sesso, pornostar, artista si chiama pornostar uguale artista del sesso, in questo senso. Scusi, signora Di Leo, ma con quanti diavoli di politici è stata lei? 1, 2, 3, 4, 5, si può dire o no? No, non si può dire. Non si può dire, vabbè. Perché magari ne ho conosciuti tanti, ecco. Ne ha conosciuti tante. Le do un piccolo bacio sulla fronte. A domani 18:30. Viviamo e lottiamo insieme a voi. E con l'aiuto da pillola blu, il bunga bunga lo fai pure tu. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Il sistema parlamentare in questo paese non va bene.